Radio Blackout 105250, questa è Matrix Flow e continuiamo le nostre dirette, i nostri approfondimenti. Lasciamo le questioni torinese legate alla lotta per la casa e ci spostiamo di non solo di città ma proprio di regione e approdiamo a Bologna. Bologna da sempre feudo di una certa sinistra legata al PC, al PDS, al DS e adesso al PD, il laboratorio per questi gruppi politici per sperimentare le proprie azioni di governance e di governo della città, che spesso ultimamente è assunta gli onori della cronaca per gli attacchi al movimento abitativo e città dove gli spazi liberati continuano ad essere sotto la spada di Damocle di sgomberi. È il caso di uno storico centro bolognese, l'XM, ed è di questi giorni proprio la notizia che l'XM ha ricevuto una più o meno simpatica lettera in cui gli si avvertiva che i locali dovrebbero essere lasciati a disposizione della proprietà entro giugno. Allora, ci facciamo raccontare da Andrea, da Bologna, cosa sta succedendo a Bologna e cosa succede all'XM. Ciao Andrea, benvenuta a Radio Blackout. Ciao a tutte e tutti. Allora, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, però tu raccontaci meglio cosa succede a Bologna e soprattutto cosa succede all'XM di Bologna. Sì, allora, come dicevi tu, simpatica la lettera, ma più che altro simpatico il modo in cui ci è stata recapitata questa lettera dall'amministrazione comunale. Abbiamo ricevuto una mail dove, data 31 di gennaio, dove veniamo invitati a liberare i locali entro il 30 giugno, ma la cosa che ci ha fatto più sorridere è quello che c'è scritto in queste righe, così come abbiamo indicato nel primo comunicato con cui siamo usciti. Si parla di destinazione per attività istituzionali dello stabile in via Fioravanti 24 dove attualmente ci troviamo e ci sarebbe piaciuto tanto capire quali erano queste attività istituzionali e questa mattina abbiamo letto sui giornali che una di queste attività istituzionali potrebbe essere una caserma. Di quale utilità pubblica parliamo rispetto a quelle che sono invece tutte le attività che vengono svolte, tutti i progetti che ci sono all'interno di XM24. Progetti ovviamente sociali che sono realizzati in maniera completamente autogestita. E questa è una delle prime cose che vorremmo chiedere, quali sono queste attività istituzionali. E un'altra cosa che viene indicata all'interno di questa lettera è la disponibilità dell'immobile necessaria per dare attuazione alla strategia dell'amministrazione. Di quali strategie stiamo parlando? Nel senso che quella che ci viene in mente è che pensare di sgomberare o di spostare XM rientra sicuramente. Le stanno tenendo abbastanza nascoste perché evidentemente non hanno una certezza assoluta di essere, di essere compiacenti rispetto anche alla popolazione comune della città, o sbaglio? Sicuramente. Quali potrebbero essere anche quelle attività istituzionali che possono essere equiparate poi a tutte quelle sperimentazioni che si fanno all'interno, da anni ovviamente, all'interno dell'XM24, ma anche di tante realtà autogestite a Bologna, in Italia e non solo. Quello ci chiediamo. Ecco, senti Andrea, la lettera è arrivata in questi giorni. Oggi tu ci racconti che già sta un po' uscendo dal torpore e dalla nebbia che il comune aveva dato in questa lettera alcune possibilità per questo spazio. Ecco, in primis una caserma che veramente fa accapponare la pelle solo al pensiero di dover fare un'ennesima caserma in questo paese. Non ci sono stati altri abboccamenti? Vi hanno fatto delle proposte? Assolutamente no, noi non abbiamo tutto quello che ci viene chiesto a tutto quello che ci viene chiesto noi rispondiamo in maniera pubblica e limpida. Non abbiamo avuto nessun tipo di indicazioni, anzi noi siamo ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'assessore Gambarelli, in quanto circa 15 giorni fa le avevamo chiesto un ulteriore incontro per consegnare la relazione sulle attività svolte all'interno di XM24, che lei stessa ci aveva richiesto come previsto dalla convenzione. Ricordiamo, voi avete una convenzione, giusto, in realtà con... Avevamo una convenzione, visto che è scaduta il 31 di dicembre. Ok. Noi dovevamo consegnare una relazione su tutte le attività svolte all'interno di XM, quindi all'interno dei laboratori di XM. Volevamo consegnarla brevi mano all'assessore. La nostra richiesta d'incontro, alla nostra richiesta d'incontro non abbiamo ricevuto risposta, se non che il caso ha voluto che lo stesso giorno che noi ricevessimo la mail da parte dell'amministrazione comunale, abbiamo inviato una mail con all'interno allegato 41 pagine di relazioni. Quindi diciamo che state cercando anche... Noi aspettiamo la risposta ufficiale da parte dell'assessore, che però, visto che questo incontro ancora non è stato concesso. Sì, cioè, l'assessore non ha dato risposta, però il comune ha già detto che non vi vuole più. Però il comune ha detto che quindi, di fatto già, per non essere proprio del tutto ingenui, mi sembra di capire che la risposta è abbastanza chiara. E come vi state organizzando voi a questo punto? La notizia è fresca, immagino quindi che ci voglia un po' di tempo, però cosa state pensando di fare da qui a giugno? Immagino che mettiate in campo un po' di iniziative. Sicuramente iniziative pubbliche, aperte ovviamente a tutti, al quartiere della Bolognina, ma a tutta Bologna e a chiunque volesse partecipare. Il primo appuntamento è mercoledì 8 febbraio alle 20, un'assemblea pubblica cittadina, dove vogliamo andare a riprendere e a dare il nostro contributo rispetto a quello che è il rispetto a quelle che sono le pratiche, l'esperienza e le pratiche dell'autogestione. E questo è uno dei primi appuntamenti. E il 19 di febbraio festeggiamo il 15° compleanno di XM e siete tutte e tutti invitati. È arrivato, guarda, un messaggio al cellulare di Blackout 346-6673-263 che ricorda: prima, anni fa, ci volevano fare una rotonda, ora una caserma, magari faranno una caserma rotonda disegnata da un architetto trendy. Gentrification e libertà, come la repressione. Solidarietà all'XM da Mastello, che è un caro compagno che salutiamo, sì. Ovviamente, ecco. E in effetti di sopra hanno sempre avuto belle idee quelli del comune di Bologna, evidentemente, come ci ricordava Mastello. Sono fantasiosi, così. Sì, c'era stata tutta la campagna per la battaglia di XM, dove era previsto l'abbattimento di una parte di XM per posizionarci questa rotonda, e noi attraverso degli esperti, quindi degli architetti, siamo riusciti a dimostrare che si poteva fare questa rotonda non necessariamente buttando giù una parte di XM. Vabbè, ma quello ci provano sempre, qualsiasi cosa loro provano a tirare giù gli spazi liberati. Andrea, noi siamo in chiusura di trasmissione, ti ringraziamo, ovviamente piena solidarietà da questi microfoni all'XM. Rimarremo sicuramente aggiornati, perché immaginiamo che da qui a giugno ne vedremo delle belle, ecco. Speriamo e soprattutto speriamo che questa esperienza, ormai ricordami 15 anni giusto di autogestione, 15 anni, sì. 15 di autogestione, possa continuare ad andare avanti. Grazie Andrea e a presto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Buona ciao. Strada. Ciao.